Allora, partiamo dal counseling da Rogers. Si può dire che Rogers è strettamente collegato alla cultura del counseling. È stato lui a proporre il nome di counselor nella relazione terapeutica. Cioè, infatti dice, al posto di terapeuta o medico o educatore, utilizzare il termine di counselor. E al posto di paziente, soggetto, malato, utilizzare la parola cliente, per indicare che una relazione completamente diversa da quella tradizionale della professione di aiuto. Vediamo qual era quella tradizionale. La traduzione tradizionale era che la persona da aiutare era un caso che poi doveva essere classificato all'interno di una teoria abbastanza ampia e comprensiva, e una volta diagnosticato il caso, poi ne derivavano delle procedure di trattamento in base alla teoria. E quindi si poteva dire che la bontà di un trattamento deriva dalla coerenza, dalla completezza della teoria e dalla precisione con cui vengono utilizzate le procedure di trattamento. In questo modo, quindi, la persona umana diventava appunto, tra virgolette, un caso. E quindi un soggetto da trattare, un paziente, una persona malata. Bene, la situazione che Rogers vuole delineare nella relazione di aiuto è proprio completamente diversa, veramente rivoluzionaria. Perché ritiene che una persona che ha un disagio è in una situazione comunque unica dal punto di vista del vissuto e che non ci possa essere una teoria, per quanto articolata, che lo possa comprendere pienamente. Quindi auspica un ritorno all'ingenuità del professionista dell'aiuto, che non ha una idea di teoria dentro cui può inquadrare le persone, ma quello che conta è che sia veramente nella relazione lì presente con quello che c'è, perché ogni volta è diverso, cioè ogni caso, ogni tra virgolette caso, ogni situazione umana è unica dal punto di vista dei significati, vanno compresi i propri significati che quella persona dà al suo problema. Allora, devo per dire, ci sono infinite sfumature dell'ossessività, ma ancora di più ci sono infinite modi in cui si può vivere l'ossessività, o si può vivere la depressione, o si può vivere le sparti istrioniche e così via. Allora, per Rogers cos'è importante? Quindi non è importante una teoria di riferimento generale, che tra l'altro oggi tende a essere screditata nell'ambito delle psicoterapie, perché si è, con ricerche estremamente accurate e accreditate, si è visto che un po' tutte le scuole ottengono successi, qualunque teoria di riferimento può funzionare, e quindi non è quella che fa la differenza sono altre cose. Queste altre cose in Rogers sono indicate come le qualità della persona, del terapeuta. Allora, quindi, in che cosa consiste la specificità della relazione di aiuto, secondo Rogers, e quindi del counselor? Che il counselor deve creare un contesto di opportunità, e questo è il compito del counselor o facilitatore o agevolatore, per consentire a una persona di riaccedere alle proprie risorse. E è uno dei principi fondamentali della psicologia umanistica, che ogni persona ha dentro di te già tutte le risorse per risolvere i problemi. Quindi, che cosa è necessario? Creare un contesto in cui la persona possa riaccedere, riattivare le sue risorse per poter superare gli ostacoli che gli impediscono realizzare gli obiettivi che si pone. Poi il discorso a differenza tra terapia e counseling ne parleremo dopo. Adesso guardiamo proprio il processo di aiuto, in generale cos'è. Il processo di aiuto appunto è creare un contesto di opportunità che ha determinate caratteristiche. Quali sono queste caratteristiche? Quali sono queste qualità che deve portare il counselor in terapia? Che abilità sono? Ecco. E Rogers in generale dice questo, che la relazione di aiuto, il professionista della relazione di aiuto, si pone in una condizione differente da tutti gli altri professionisti, perché tutti gli altri professionisti hanno una loro specificità. L'ingegnere ha determinate competenze, il medico ne ha delle altre, l'insegnante ne ha delle altre. Ma il facilitatore, l'agevolatore, non ha qualità che siano specifiche del suo lavoro, semplicemente ha le qualità umane a disposizione, cioè ha delle abilità di relazione umana, che però sono di competenza potenzialmente di tutti, mentre non è di tutti la potenzialità di creare, l'abilità di creare un ponte o di creare un'astronave. Invece le qualità umane sono insite nell'essere uomini e la nostra struttura di esseri umani, e quindi non gatti o coccodrilli, contiene già queste caratteristiche, come si è formatato, come si è costruito il cervello attraverso lo svolgimento della funzione della socialità umana. Quindi ce l'abbiamo tutti. E oggi questo, oggi possiamo dire che Rogers aveva pienamente ragione. Pensate a tutto quello che sappiamo sulle ricerche sul centro del cuore, sulla intelligenza del cuore, che sono ricerche di neurofisiologia, e di più ancora quelle di biodinamica, dove si scoprono determinate cose degli esseri, che sono comuni a tutti gli esseri umani. Bene, allora, se queste sono il centro, nel discorso rogersiano, il centro del discorso del counseling sono le qualità umane del counselor, ma poi il vero centro è l'attenzione alla persona. Quindi lo spostamento, è per questo che si chiama tua terapia centrata sul cliente, non è più centrata sulla teoria che dobbiamo applicare al caso e sulla quale dobbiamo diventare sempre più abili, sulle procedure di trattamento, com'è nella medicina, ma è l'attenzione e tutte le qualità umane che fanno sì che un counselor riesca a creare quel contesto di opportunità che è necessario alla persona affinché i suoi blocchi, le sue difese, le sue strutture possano essere abbandonate, superate. Quindi il counseling diventa un luogo di chiarificazione, di maturazione e di apprendimento. Questa è la prima cosa importante, quindi terapia centrata sul cliente anziché terapia centrata su che cosa? Sulle conoscenze dei modelli, sulle teorie, sui metodi, sulle tecniche. Appunto.